Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna e ci potete trovare ad ascoltare soprattutto anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it e recentemente anche in DAB in Toscana, Lombardia e in tutta l'Emilia Romagna. La trasmissione che ha come sigla questa Laila di Eric Clapton è una trasmissione che si occupa di musica dal vivo, un paio di ore ogni mercoledì circa, non sempre per motivi di salute purtroppo, dalle 10.30 alle 12.25, musica live di ogni epoca e di quasi ogni genere. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, oggi è una novità veramente per me incredibile, una delle band che preferisco negli ultimi anni, una band dal sound indecifrabile, potrebbe essere jazz, potrebbe essere rock, potrebbe essere folk, potrebbe essere musica contemporanea, potrebbe essere tutto. Una band che viene da Denton nel Texas, è stata assemblata all'università del North Texas di Denton da Michael League, che è un bassista. Lui ha sempre detto che siccome come bassista è tanto scarso che nessuno lo voleva, nessuna band lo voleva, e allora ha fondato questa band, così lui era il capo e per forza suonava. A parte queste facezie, la band si chiama Snarky Puppy ed è veramente un grande ensemble, il numero dei musicisti varia a seconda delle occasioni, a seconda dei tour, a seconda delle varie committenze dei musicisti coinvolti, ma il fulcro è sempre Michael League, appunto il bassista nonché leader. Hanno fatto un sacco di album live, tutti molto molto belli, almeno a mio avviso, perché è una musica un po' particolare, non è che si senta da tutte le parti, soprattutto in radio, perché sono brani molto lunghi, adesso ve ne accorgerete. E dicevo, di questi album molti sono fatti in una maniera un po' strana, cioè loro suonano in mezzo al pubblico, cioè sono di solito in studi di registrazione, locali non molto grandi, con 200-300 persone al massimo, forse anche meno, e praticamente il pubblico è fra i musicisti e i musicisti sono fra il pubblico, dipende dai punti di vista. E c'è in questa novità che vi propongo quest'oggi, che si chiama Omni, che è un CD più Blu-ray. Come vi dicevo altre volte, io non posseggo un Blu-ray, ma posseggo non posseggo un lettore Blu-ray, ma posseggo una trentina di Blu-ray per forza, come in questo caso, e però circola nei pochi canali televisivi che sono vedibili, circola appunto questo concerto che loro hanno fatto al Kabula Gogo di Utrecht in Olanda e che è stato immortalato in questo album che si chiama Omni. Il tutto è stato registrato insieme alla Metropole Orchestra, che è un'orchestra di musica classica, che in questo caso è diretta da Jukes Buckley. Il tutto forma la seconda collaborazione fra gli Snarky Puppy e la Metropole Orchestra. Il primo fu Silva nel 2015. Il tutto è stato registrato durante tre serate, il 17, 18 e 19 gennaio del 2025, quindi lo scorso anno. E basta, dopo tutte queste chiacchiere ce ne andiamo ad ascoltare. Loro si chiamano Snarky Puppy, l'ultimo album si chiama Omni e questa invece si chiama Chimera. We'll be right back. L'album è accreditato a Snarky Puppy e Metropole Orchestra. L'album si chiama Somni. A Metropole Orchestra, come ho già detto prima, ha collaborato diverse volte con gli Snarky Puppy. In due occasioni sono stati registrati e pubblicati su CD. La Metropole Orchestra arriva da Hilversum in Olanda, è attiva dal 1945, quindi non da poco, ed è anche questo, come gli Snarky Puppy, un ensemble aperto. L'orchestra varia da 52 a 97 musicisti, e la sua particolarità è quella di non avere barriere. Fa naturalmente musica classica, ma fa anche jazz, fa anche pop, fa anche rock, fa veramente un sacco di cose. E la collaborazione con questi Snarky Puppy che ci siamo ascoltati in un brano che si chiama Chimera. Il tutto è stato registrato a Utrecht in Olanda. Utrecht è un'antica città romana, è stata fondata come castro nel 47 d.C. E al momento attuale, due anni fa, scusate, aveva una popolazione di 376.000 abitanti, e secondo me io lo assimilo molto a Bologna, perché a parte i 376.000 abitanti, quindi siamo circa lì, ci sono più di 40.000 studenti in una delle università più famose non solo d'Europa ma di tutto il mondo, per cui una certa analogia c'è. E, fra l'altro, ho avuto la fortuna di rimanere intatta durante la Seconda Guerra Mondiale. Non ci sono stati bombardamenti, sì, sono stati bombardamenti, ma non hanno intaccato quello che è il centro storico della città, che, essendo una città universitaria, ha un sacco di concerti e un sacco di posti in cui andare a sentire buona musica. Buona musica che ci ascolteremo adesso nella prima parte della trasmissione, naturalmente registrata a Utrecht. Ed iniziamo da quella che dai critici e anche da chi vi sta parlando è considerata una delle band più sottovalutate, più sconosciute anche dell'intera panorama rock degli anni 70-80. Loro venivano da South London, sono stati attivi dal 1979 al 1988 con Adrian Borland, chitarrista e cantante, come frontman. Si chiamavano Sound, un nome e un programma. Hanno fatto diversi album dal vivo e loro erano molto famosi in Olanda, tanto che erano trasmessi spesso e volentieri dalla radio ufficiale statale olandese. 5 di queste registrazioni sono state pubblicate su CD in una serie che si chiama Dutch Radio Recording Series, 5 volumi, come vi dicevo, e 2 dei quali sono stati registrati a Utrecht. Noi ci andiamo ad ascoltare il volume 2, che è stato registrato in occasione del Nux Festival, del No Nux Festival a Utrecht, appunto il 9 aprile del 1982. Il pezzo è uno dei classici, fra virgolette, di questa band, come vi dicevo, molto molto sottovalutata, ma per me bravissimi. Si chiamavano Sound e il brano invece si chiama Winning. This is a song for the people. This is a song for all the people in the no nuclear power movement. Come on, John. Who don't believe in fascism and rules. And I couldn't even get on stage tonight because some asshole said, you haven't got a pass. I haven't got a fucking pass. What a shame. It's called Winning, and we are winning. Thank you. All'inizio nel 1981 si chiamavano Southern Death Cult, poi divennero Death Cult e alla fine dal 1984 si chiamano tuttora solamente Cult. Il comune denominatore di queste tre bands era Ian Astbury, il cantante, grandissima voce e ottimo performer. Il tutto però ha avuto una trasformazione musicale, diciamo, dal gothic sound iniziale a praticamente heavy metal dei giorni nostri, grazie, per merito o per colpa, fate un po' voi, di Billy Duffy, chitarrista, che è arrivato nel 1984. Hanno fatto due album live ufficiali più un sacco di instant records, quelli che vengono registrati durante il concerto e venduti alla fine, poi quelli che rimangono naturalmente vengono mandati in rete per l'acquisto. E hanno fatto un sacco di singoli dal vivo, questo è uno di quelli. Il brano trainante è Lil Devil, in 12 pollici in questo caso, con la facciata A in studio e la facciata B dal vivo, registrata al Music Center di Utrecht il 24 gennaio del 1986. Il brano che ci siamo ascoltati, uno dei classici della loro produzione, si chiama She Sell Sanctuary, il tutto da questi Cult. That's the girl of the hour by the water tower. Watch if your friends took a fall, you're obligated to follow. Time after time. If you're tired, try. You can find me in my room and stay if you want. The third time you can lose. Time after time after. Time after time after time. If he pulls on his hooves, you gather friends by the tower. If you try to refuse, they judge your worth. Fences down with the trust of a child. I waited for your rivers of suggestion are driving me away. The trees will bend, the cities wash away. The city on the river is a girl without a dream. I'm sorry, I'm sorry. Eastern to Mountain, third party call. The lines are down, the wise man built his house upon the rocks. I'm not bound to follow suit. The trees will bend, the cities wash away. The city and the mountains is a boy without a dream. I'm sorry, I'm sorry. Spero che tutti abbiate potuto apprezzare appieno questo splendido medley perché in certi punti il suono era veramente molto molto basso, il volume era molto molto basso, per meglio di dire, ma questo medley era composto da tre brani: Time After Time, che non è quello di Cyndi Lauper, ma è quello di R.I.M., che naturalmente lo hanno interpretato, poi un piccolo accenno a Red Rain di Peter Gabriel, per finire con So Central Rain, uno dei classici della produzione di R.I.M., che in questo caso erano ridotti a due personaggi solamente: Michael Stipe, voce inconfondibile, e Peter Bucks alla chitarra. Nel frattempo forse Mike Mills, Bill Berry, il bassista e il batterista, probabilmente erano andati a prendere un caffè al Music Centrum di Utrecht, dove il 14 settembre del 1987 R.E.M. suonarono e incisero questo splendido brano, questo splendido medley, per meglio dire. C'è stato un periodo negli anni 70, anzi diciamo a cavallo fra i 60 e i 70, in cui anche in Italia il folk rock britannico era molto molto famoso. Fairport Convention, un nome su tutti, ma un altro nome che andava molto in voga, ma di cui molti si sono dimenticati, è quello dei Magna Carta, una band che si era formata a London, in Gran Bretagna naturalmente, è stata attiva dal 1969 al 2019 con Chris Simpson, chitarrista e cantante, l'unico membro fisso duraturo della band. Sono stati, come vi dicevo, leader nel campo del folk rock britannico, erano discretamente famosi anche dalle nostre parti, ma lo erano di più in Olanda, che è un paese molto più musicale, molto più rock del nostro, e infatti alcuni dei parecchi album live dei Magna Carta sono stati registrati proprio in Olanda. Tipo questo, si chiama State of the Art, non si sa bene dove sia stato registrato né quando sia stato registrato, si sa solamente che era Utrecht, era la primavera del 1994 e che il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Two Old Friends, due vecchi amici, loro sono Magna Carta. Yesterday, they were there, but I got the feeling they had gone away from each other, and I was alone, just killing time, stranger in the silence of their company. Old friends of mine, is this all life has left of you? Who took the laughter, who took the times? We said what you were gonna do when we were grown and ready to take on the world with a song. Don't remember. Who lost the reason for being together? Who says the money, well, it won't go right? But once it was love, we live on a shoestring, but they don't give no mortgage on a castle in the air. To old friends of mine, dripping tap and a broken old chair. And if I read between the lines, someone's lonely, someone doesn't care. If it's all done by tomorrow, for tomorrow's been a goal, just like some bird that has no home. nights we stay in hotel man. Una grande band, quella di Procol Harum, furono attivi dal 1967 al 2022 con qualche interruzione sporadica, ebbero un grandissimo successo negli anni 60 con due brani, Why the Shade of Pale e Homburg, e poi dopo hanno proseguito con una carriera densa di soddisfazioni, sempre guidati da Gary Brooker, il pianista della band e cantante della band, band che aveva anche la doppia tastiera, c'era anche sempre un organista in organico, scusate il gioco di parole. Il tutto, quello che ci siamo ascoltati, arriva da un album che si chiama One More Time, è stato registrato al Music Centrum Verdeburg di Utrecht, naturalmente, che è la città dove sono stati registrati tutti questi brani, il 13 febbraio del 1992. Il brano, spero che lo sappiate, si chiama Grand Hotel, uno dei super classici di questa, per me, fantastica band. A concludere questa forzatamente piccola rassegna di brani registrati a Utrecht in Olanda nel corso degli anni, ce ne sarebbero ancora tantissimi, i Pixies, i Brandos, i Blur, però andiamo a concludere con i Meridian. Loro vengono tuttora, perché sono tuttora attivi, da Aylesbury, Gran Bretagna, e hanno praticamente la carriera divisa in due parti, quella con Fish come cantante 1978-1988, sostituito poi da Steve Hogarth dal 1989 ad oggi. Hanno fatto una caterva, ma veramente una caterva, di album live, molti dei quali sono reperibili attraverso il loro fan club sul loro sito, e hanno fatto un sacco di singoli con live songs, e ogni anno, da oramai tempo immemore, fanno un weekend in Olanda insieme ai loro fans per autocelebrarsi, diciamo, e una grande festa con concerti tutte le sere da parte appunto di Meridian. Il 12 pollici in vinile che ci andiamo ad ascoltare adesso si chiama Earth of Lothian e contiene questa Chelsea Monday, che è stata registrata pure al Music Centrum di Vredenburg in Olanda, a Utrecht naturalmente, il 15 e 16 ottobre 1985. Il brano, lo ripeto, Chelsea Monday, loro sono Meridian. This is a song dedicated to the ladies, and this is called Chelsea Monday. Hiding in a surfing world. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo all'ultima trasmissione di febbraio 2026 e la seconda parte è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi. Sono Snarky Puppy in compagnia delle Metropole Orchestra in questo brano che si chiama Drift, si sentiva parecchio. E Snarky Puppy hanno fatto un sacco di album live, come vi dicevo c'è questa particolarità di alcuni di loro, tipo questo, nel quale il pubblico e i musicisti sono integrati, diciamo così, l'uno dentro l'altro. E capita di essere seduti di fianco al sassofonista o al trombettista o altro musicista, non so se sia a scelta, ma sicuramente è un gran bel vedere. E come avete sentito, anzi non sentito, il pubblico è molto molto molto silenzioso in questo caso, come anche nel caso precedente nel brano Chimera che ha aperto la trasmissione. Però vi assicuro che questo album è dal vivo, si chiama Omni ed è stato registrato il 17, 18 e 19 gennaio del 2025. Ribadisco, il brano si chiama Drift. E naturalmente nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. È inutile dirlo ancora una volta, ma lo dico, tantissimi brani registrati in questo 25 febbraio, per cui il criterio di scelta è, a mio giudizio, insindacabile, un brano per ogni decade. A questo punto, se ne avete la possibilità, sedetevi, perché il brano è abbastanza lungo, anzi parecchio lungo, 11 minuti in pratica, ma è assolutamente un capolavoro. Rilassatevi perché state per ascoltare una delle cose più belle che la musica progressive, non solo, abbia mai partorito. È un brano che rientra nella categoria della mia top 10, è un brano che ha caratterizzato per diversi anni la carriera dei Genesis. Di loro che sto parlando, arrivavano dal Surrey, sono stati attivi dal 1967 al 2022, ma come nel caso dei Marion, anche qui abbiamo due fasi, quella con Peter Gabriel dal 1967 al 1975 e quella con Phil Collins a seguire, fino allo scioglimento. Phil Collins che poi avrebbe, purtroppo dico io, preso in mano le redini della band fino a portarla a un pop assolutamente insignificante, tanto che a mio avviso dal diciamo 77 in poi si sarebbe dovuto chiamare Phil Collins Group, ma questo è un altro discorso. Questo è il loro primo album dal vivo, si chiama semplicemente Live, solamente un long playing, non mi risulta che ci siano state ristampe in CD con aggiunte varie, la cosa è veramente deleteria. Quattro delle cinque canzoni sono state registrate, quattro delle cinque ho detto, su praticamente 63 minuti mi sembra di musica, sono stati registrati al The Montford Hall di Leicester il 25 febbraio del 1963. Signore e signori, questo è, senza tema di smentite, un capolavoro, The Musical Box. That was an unaccompanied bass pedal solo from Michael Rutherford. This is the musical box. Within this half world. seems to matter now. Play my song. Play me by a song. Touch, and I know. push back your hair and let me get to know your face. She's a lady, she is mine. Oh, brush back your hair and let me get to know your flesh. I've been waiting here so long, and all this time you pass me by. It doesn't seem to matter now. You stand there with your expression casting down from your life. Why don't you touch me? Touch me. Why don't you touch me? Touch me. Touch me. Bow, bow, bow, bow, bow. Bow, bow, bow, bow, bow. Bow, bow, bow, bow, bow. So che non è molto professionale, ma la mia pelle d'oca è alta almeno tre dita. Capolavoro assoluto, si chiama The Musical Box, Genesis, The Montfort Hall di Leicester, 25 febbraio 1973. È stato il cantante dei Wall of Voodoo dal 1977 al 1983, poi si è messo in proprio, il primo album è del 1986, poi ne ha fatti tanti altri, fra cui molti dal vivo, reperibili quasi tutti però solamente sul loro sito, sul suo sito. Si chiama Stan Ridgway e prima di pubblicare il proprio album solista, il primo, ha collaborato con tantissimi altri musicisti, fra cui Stuart Copeland per la colonna sonora di un film che si chiama Rumble Fish di Francis Ford Coppola, scusate se è poco, e quindi è quello che ci andiamo ad ascoltare, il brano che appunto è stato scritto a quattro mani dai Stan Ridgway e Stuart Copeland, ex batterista di Yes, si chiama Don't Box Me In, era il 25 febbraio del 1987, registrato a Byron Bay in Australia. What I made of, there'll be a time when remember what I was afraid of. And I'll be swimming in the sea. They'll bang it on this glass for me. My eyes saw red when my life turned blue. So I believe in everything that's true. And I'll jump into a brand new skin. And then you won't be able to box me in. Don't box me in. Yeah. Let's go. There's a few places round that I've never been. There's an ocean out there that I gotta swim. There's a river that flows right past. I wonder. Sometimes I can't seem to talk. You'll know this blackboard backs a piece of chalk. Don't box me in. Don't box me in. Don't box me in. Don't box me in. Let's go. Oh, Thank you. We'd like to welcome Sean Nelson from Harvey Danger to help us out with this next one. Sono tra gli alfieri dell'indie rock americano, si chiamano Death Cab for Cutie, è un nome derivato purtroppo da una situazione funesta, una loro fan dopo un concerto preso un taxi che ebbe un incidente e morì, da qui questo nome, non so se fosse il caso, ma comunque loro l'hanno scelto e per cui niente da dire. E sono attivi dal 1997, vengono da Bellingham, nello stato di Washington, e il loro primo album, che è uscito nell'agosto del 1998, si chiama Something About Airplanes ed è un album che è stato ripubblicato in versione 2 CD 10 anni dopo, nel novembre del 2008. Il secondo CD dal quale ci siamo ascoltati questo brano, che si chiama Fake Thrones, il secondo CD, dicevo, è stato registrato al Crocodile Cafe di Seattle, stato di Washington, quindi vicino a casa loro, sempre in termini americani, il 25 febbraio del 1998. Tutto appunto da questa band che si chiama Death Cab for Cutie. Hooligan, and he said that he'd never, never do it again, and of course he won't. Negli Stati Uniti ci sono tantissime radio, sia in FM che in AM, ultimamente in AM un po' meno, ma tantissime radio che hanno, a parte un sacco di soldi, ma sicuramente hanno un potere a parte la comunicazione, di pubblicità, che chiamiamo un potere pubblicitario veramente notevole, e così molte bands permettono loro di trasmettere, registrare e trasmettere i propri concerti. Alcune di queste radio poi pubblicano ogni anno per periodi più o meno brevi, pubblicano appunto un album con migliori registrazioni effettuate nel corso dell'anno stesso. L'esempio più eclatante era purtroppo K-Fog, che è una radio di San Francisco che ha fatto 23 volumi, tutti bellissimi, e un'altra radio, stavolta di Chicago, si chiama WXRT, ha fatto una serie che si chiama OnXRT, appunto su XRT. Come sapete sicuramente meglio di me, le radio americane hanno tutte delle sigle, non hanno nomi tipo Città Fujiko Live Club, tipo Radio Città Fujiko, scusate, e quindi questa è una raccolta di quella serie, si chiama Live on XRT appunto, e comprende un sacco di gente molto interessante: Jet, Lenny Kravitz, Phantasm on Wayne, Joe Jackson, David Bowie, Gloucester, Norah Jones, Pete Yon, Robert Plant, roba appunto sopraffina. E la traccia numero 5 di questa raccolta è ad opera di una band che dovreste conoscere, perché si chiama semplicemente Cure. Non starò a dilungarmi appunto sui Cure, dirò solamente che sono attivi dal 1976, quindi quest'anno sono già un bel po', sempre con Robert Smith alla guida. E da questo Live the Archives, Archives come volete, numero 8, è l'ottavo di 19 volumi finora, quanto mi consta. I Cure sono stati registrati al Vic Theater di Chicago il 25 febbraio dell'anno di grazia 2000. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei super classici della band, appunto di Robert Smith, si chiama Fascination Street. sempre grandissimi Cure, registrati in questo caso al Vic Theater di Chicago il 25 febbraio 2000, il tutto inserito in questa raccolta che si chiama Live from the Archives Series, il volume 8, volume 8, da parte della radio WXRT, e questa serie appunto si chiama On XRT perché si contiene registrazioni effettuate dalla radio in concerto oppure proprio negli studi della radio, solitamente acustica. Quello che sta andando sotto è un gruppo che si chiama Phantasm on Wayne, uno dei più sconosciuti in questa raccolta che, come dicevo prima, comprende un sacco di grandi artisti. Grande artista come era, purtroppo era Wilco Johnson, nome sconosciuto ai più, ma è stato un chitarrista, cantante, fondatore di una band che si chiama tuttora Dr. Feelgood, ma band che non ha nessun membro originale in questi ultimi anni. Lui ha lasciato la band che aveva formato appunto nel 1971, l'ha lasciata nel 1977, è passato attraverso varie esperienze, ha formato una band che si chiama Solid Sanders, poi ha suonato nei Blockheads di Yanduri, poi ha formato la propria Wilco Johnson Band. È morto nel 2022 dopo lunghi anni di battaglia, come si suol dire, contro un tumore. E nel 2014, insieme al suo vecchio amico Roger Daltrey, cantante degli U, ha pubblicato un album che si chiama Going Back Home. Quando giovani artisti squattrinati, speranzosi, fanno amicizia, poi nel corso degli anni questa amicizia rimane e diciamo che quello che ha più successo, in questo caso Roger Daltrey, dà una mano a quello che ha avuto meno successo, Wilco Johnson, o che ha in difficoltà perché appunto ha questo problema tumorale. E l'album che hanno fatto insieme si chiama Going Back Home, e ne è uscita anche una versione deluxe che è quella che ci andremo ad ascoltare, perché il secondo dischetto ha diverse canzoni dal vivo, alcune registrate appunto dal duo Wilco Johnson Roger Daltrey, ma l'altra invece è registrata solamente dalla Wilco Johnson Band, ed è quello che ci interessa perché è stata registrata il 25 febbraio del 2014 al Shepherd Bush Empire di Londra. Ce ne andiamo ad ascoltare con quello che era un classico della band che Wilco Johnson formò, cioè i Dr. Feelgood. Il brano si chiama Roxette, ma prima, visto che è l'ultimo brano, vi ricordo che vi siete ascoltati in Città Fujiko Live Club, un paio d'ore di musica dal vivo ogni mercoledì o quasi, dai 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica per appunto la zona limitrofa Bologna, ma se volete ascoltarci in tutto il mondo abbiamo la post app. E un saluto ai nuovi amici e nuovi ascoltatori lombardi, toscani e anche emiliani, visto che adesso copriamo tutta l'Emilia tramite il DAB. Vi lascio in compagnia di Wilco Johnson, della sua Roxette, l'esce bolognese, e vi do appuntamento mercoledì prossimo. Vi ringrazio per l'ascolto, ciao a tutti da Nebbio, Wilco Johnson, Roxette. Story about a girl I used to know. She done me wrong, caused my heart to bleed, spent my money, blew my mind, and all I ever did was treat her nice and now she's gone, but I'll rise again. Ain't gonna let no woman make a fool out of me. But still sometimes when it's late at night alone in my room. I hear her car pulling up outside. I hear her walking down my path. I hear her knock upon my door. She starts to speak to me. Take a look outside through my letterbox. She still looks good. And I say, baby, do you remember the way I used to love? You now, and you can't come in. No, you can't come in, because I am a man who bears a grudge. I've got a grudge against you, baby. You can't come in. You can't come in. You can't come in. You can't come in. You can't come in. You can't come in. I saw you out the other night. I saw somebody hold you tight. Roxanne, I wondered who that could be. It was so dark I couldn't see, but I know it wasn't me. But I'll tell you it ain't right.